Capuano al volo! Capuano! Che gol di Capuano! Quasi da centrocampo, comunque da tre quarti. Un sinistro al volo impressionante. Tutti convocati. Di Giovanni Capuano. What do I do to make you want me? What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. Verso la 106esima vittoria si era fermato a 105 che sembravano già un monte spaziale, tutti in piedi sul divano, ultima chicane, è tornato, Rossi c'è, torna a vincere. Un discorso veramente di una pochezza aberrante che da un certo punto di vista mi umiliano anche, sinceramente non mi va di sentirli perché te l'ho già detto, basta andare a vedere la storia di uno di noi, la storia parla, per cui non devo star qua a dire quanti non parare, perché non mi interessa, ma mi sembra veramente a persone piccole dover stare a sottolineare queste cose perché non è da me, ecco, per cui non voglio neanche entrare in questo gioco che mi fastidisce, basta. C'è un problema che dobbiamo risolvere per il bene della Formula 1, perché ovviamente anche la Pirelli sta investendo tanto in questo sport e dobbiamo come squadre aiutarli a risolvere i problemi che ci sono. Noi abbiamo sempre detto che l'unico modo per risolvere i problemi e le parole stanno a zero è andare a fare le prove in pista, dare la possibilità alla Pirelli di provare, noi siamo disponibili a farlo. A volte è difficile chiedere scusa e c'era una volta il carrello dei bolliti e adesso da quel carrello sono scesi senza troppe scuse almeno in due. È stato il fine settimana dei ritorni dei grandi vecchi, Valentino Rossi, Gigi Buffon ad esempio, ma io aggiungo anche Giulio Cesar che questa notte ha fatto magie contro la Spagna e un anno di questi giorni era dato per finito. Insomma, questo è il lunedì delle scuse, a chi dobbiamo porgerle? 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms oppure @ tutti convocati, se volete scrivere su Twitter. Io personalmente non so se abbia senso scusarsi con Valentino Rossi, come ha fatto invece l'impareggiabile Leo Turrini. Buon pomeriggio Leo. Ciao a tutti. Scusarsi per avergli dato del bollito, che magari bollito era esagerato, ma penso, e da qui partiamo, forse esagerato anche sostenere che questa vittoria rappresenti l'inizio di una nuova carriera per Valentino Rossi. Guarda, io ho chiesto scusa a Valentino sui miei giornali domenica mattina, perché ero tra quelli che pensavano che ormai avesse soltanto un grande avvenire dietro le spalle, ma voglio dire, io cerco di dare l'esempio. Tu pensa come sarebbe bello in questo paese se tutti i politici che hanno governato, si fa per dire l'Italia, da sinistra, da destra, dal centro, dagli ultimi 20 anni, ci chiedessero scusa per come hanno ridotto questo paese. Dopodiché è chiaro che se tu mi domandi, ma Valentino tornerà a vincere spesso come faceva una volta, io non ti so rispondere, però prendo atto molto volentieri che sull'università delle piste del moto mondiale, che è Assen, è stato semplicemente spettacoloso. Così come, dato che prima hai fatto sentire Buffon, no? Sì, io mi accontenterei, Leo, anche senza andare alle scuse dei politici per gli ultimi 20, 30, 40 e chissà quanti anni. Ti dico la verità, mi accontenterei anche che questi campioni, questi idoli, accettassero anche le critiche con un minimo più di spirito. Non è da uomini piccoli contare i rigori parati o no da Buffon, fa semplicemente parte di un po' del discorso che anima le nostre giornate. Ma sì, poi io Gigi lo conosco da quando era ragazzo. Vorrei liquidare l'argomento con una battuta, dato che è nota la sua innocente passione per il gioco, per le scommesse. Magari aveva scommesso che ne parava tre contro l'Uruguay, hai capito? Quindi complimenti, certo, se ne avesse parato uno contro la Spagna saremmo stati più felici. Questo anche Buffon deve concedere che venga detto dal tifoso che sta seduto davanti al televisore. Sì, e anche che probabilmente parare i rigori non sia la caratteristica migliore di una carriera che rimane comunque monumentale e che si avvia un meraviglioso declino, perché gli anni passano per tutti e per Buffon non sono più quelli di 10 anni fa. Prego, Leo. In generale, i campioni moderni dello sport del nuovo millennio hanno acquisito un tasso di permalosaggine che è qualche cosa di clamoroso e di inaudito. Una volta, io mi ricordo, cioè, si dicevano delle robe di Gianni Rivera piuttosto che di Sandro Mazzola, o anche in tempi successivi di Roberto Baggio, no? Ti ricordi Gianni Agnelli chiamava Roberto Baggio coniglio bagnato, no? Per dirne una. E questi mica se la prendevano in questo modo. Adesso c'è un'ipersensibilità molto accentuata e prendiamone atto, insomma, si vede che sono cambiati i temi. C'è un po' di abitudine ai canali tematici, secondo me, per cui bisogna sempre partire dalla sottolineatura che si è o si è stati i migliori in assoluto prima di poter azzardare una critica. Torniamo però a Valentino Rossi. Ad Assen, condizioni forse quasi irripetibili tra gli infortuni di Lorenzo e Marquez, comunque una pista favorevole alla Yamaha, ma questo non per sminuire quello che ha fatto Valentino Rossi sabato in Olanda, ma per cercare probabilmente di collocarlo nella giusta ottica. Ma lui è stato bravissimo, voglio dire, Assen, lo ricordavamo poco fa, è un po' la scala della MotoGP, e lì si è visto che l'uomo c'è ancora. Poi, come ricordavi tu, sicuramente si sono accumulati degli episodi che lo hanno aiutato, perché Lorenzo sappiamo in quali condizioni si è presentato sulla griglia di partenza, però è molto bello, onestamente, anche romantico, che nel giorno in cui le circostanze erano incoraggianti, Rossi ne ha sfruttate con l'istinto del killer. Quindi io non vorrei togliergli niente, ripeto, io l'avevo già sistemato sul carrello dei bolliti. Questa forse è la dimostrazione, in Italia si parla tanto di rottamazione, non sono da rottamare i campionissimi, ma probabilmente certi giornalisti come me. Mettiamola così. E poi ti chiederemo magari scusa fra qualche tempo. Non pretendo tanto. E perché no? 800-24-0024 per le vostre telefonate in diretta. C'è Leo Turrini, c'è però anche il traffico. Un minuto, poi torniamo. Qua davanti è tutto un arcobaleno per Valentino Rossi. Alla faccia del bollito! Alla faccia del bollito! Tutti convocati. And sorry seems to be the hardest word. E infine con la cosa più importante. Sono le gomme che vincono le corse. O anche che le fanno perdere, o anche, carissimo Leo Turrini, che ci portano a chiedere se nell'elenco di chi deve porgere delle scuse ci sia anche la Pirelli o viceversa. Perché oggi qualcuno ha scritto, commentando la domenica surreale di Silverstone di ieri, con questi pneumatici che esplodevano in rettilineo, mettendo anche a rischio la sicurezza dei piloti, c'è anche chi ha scritto che in fondo la colpa è delle scuderie che, controllandosi, sospettando l'una dell'altra, impediscono i test, e i test sono l'unica cosa che servirebbero in fondo per consentire anche alla Pirelli di fare un prodotto meno indecente di quello visto ieri. Aiutaci. Guarda, a capire. Sì, dobbiamo distinguere le cose. Innanzitutto ti dico una cosa: se Pirelli fosse un produttore di profilattici ci sarebbe un boom delle nascite, avremmo risolto la crisi demografica perché esploderebbero sul più bello, va bene? Assolutamente. Quindi non c'è dubbio che insomma questo Paul Embry, che è il direttore tecnico della Pirelli, è per Tronchetti Provera, interista come me, quello che Stramaccioni è stato per Moratti, nel senso che se tu sei il fornitore unico per la Formula 1 e poi vedi uno spettacolo come ieri, 5 macchine diverse sulle quali esplodono pneumatici, insomma sei in presenza di uno scempio che non può essere giustificato in alcun modo. Dopodiché, per completare il ragionamento, è vero quello a cui tu hai fatto riferimento poco fa, che la Formula 1 è amministrata da gente talmente assurda che proibisce i collaudi ormai da anni. Si sono dati una norma per la quale nell'arco della stagione non è consentito fare test. Questa è una limitazione gigantesca, non solo per affinare le vetture, non solo per far fare esperienza ai piloti, soprattutto i più giovani, ma a maggior ragione per un fornitore di gomme. Infatti adesso stanno tentando disperatamente di correre ai ripari, anche perché nel weekend c'è un altro Gran Premio subito in Germania, per dopodomani, mercoledì, Jean Todt, che è il pinguino presidente della Federazione Internazionale Automobili, ha convocato una riunione d'urgenza con tutte le scuderie, con i rappresentanti della Pirelli. Per cercare di capire come si può fare. Penso che finalmente decideranno di uscire insomma dalla prigione nella quale sono rinchiusi da soli, concedendo alla Pirelli di sviluppare il prodotto da gara, da qualifica, insieme alle scuderie. Perché il vero guaio in questo momento è che, come diceva ieri Massa, come ha detto Hamilton, si sta mettendo veramente a rischio dei piloti. Anche perché sono guai, sono esplosioni, le abbiamo viste ieri addirittura in rettilineo, cioè prive di qualunque collegamento, anche con una situazione di stress particolare. Assolutamente, del mezzo. Hai visto, per dire, Alonso, gli è esplosa davanti una ruota della McLaren di Perez, no? Che lì veramente è una questione di centimetri, eh? Cioè anche il pilota che non ha il problema alla gomma può essere colpito da un detrito. È una situazione agghiacciante. Ieri ha confessato lo stesso direttore di gara della Federazione Internazionale, Charlie Whiting, che a un certo punto, dopo il quarto botto, aveva pensato di sospendere e annullare il Gran Premio, una cosa che non si è mai vista nella storia della Formula 1. Perditi la gravità della situazione. Allora, non c'è dubbio che la Pirelli ha le sue responsabilità, però c'è all'origine di tutto veramente la miopia di questi qui, il pinguino Todt, Eccleston. C'è questo paradosso assurdo per cui la Formula 1, che è la patria della sperimentazione, della tecnologia, si è data delle regole che impediscono la ricerca. Questa roba qui io la vado scrivendo da anni e per questo sono certo che non mi dovrò mai scusare. È veramente un controsenso, la negazione proprio dello spirito stesso dell'automobilismo, perché l'automobilismo è competizione, velocità, ricerca, sviluppo. Questi si sono inventati che ormai da 4-5 anni le macchine le puoi sviluppare solo al simulatore, quindi ti manca completamente la risposta dell'asfalto, eccetera, eccetera. I piloti non possono provare, i fornitori stessi vanno alla cieca, perché chiunque sa che per quanto un computer possa essere affinato e così via, l'asfalto è un'altra cosa. È un'altra cosa. E poi succedono gli spettacoli di ieri. Grazie Leo Turrini. No, grazie a voi, e comunque ricordatevi che io chiederò di nuovo scusa a Valentino Rossi quando concederà il bis, spero presto. Speriamo direttamente già nel prossimo appuntamento. Grazie Leo Turrini. Ciao, buona giornata. (800) 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Intanto notizie da Wimbledon: è appena iniziato e non è iniziato bene il lunedì degli italiani. I 4 italiani negli ottavi di finale sono già diventati 3, perché Flavia Pennetta è stata battuta dalla belga Flipkens 7-6-6-3 dopo aver avuto in mano almeno in un paio di occasioni il primo set. Non ce l'ha fatta la Pennetta, 7-6-6-3 per la Flipkens. Restiamo ancorati a Seppi, Vinci e Knapp nel corso del pomeriggio, le loro 3 partite. Stefano dalla provincia di Brescia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Salve. grazie che mi date la possibilità di parlare con voi. Dica. Ascoltate, io vorrei solo dire una cosa. Non si tratta di chiedere scusa perché deve dimostrare ancora di essere rinato, però prima di dargli del bollito dovevano ripensarci bene. E poi vorrei dire ancora una cosa. È vero che ci sono state le circostanze del dolore, del male che si è fatto Lorenzo e anche Marquez, però c'è anche da tenere presente una cosa, che nel 2010 Valentino a Imola si ruppe la gamba, entrò dopo 4 gare, finì il mondiale terzo a un punto da Pedrosa e a 60 punti da Lorenzo. Se Valentino non si rompeva la gamba, vinceva il decimo mondiale. Sì, ma stiamo parlando... Nessuno ha mai detto questo. Ha ragione Stefano, ma stiamo parlando del passato. Noi abbiamo analizzato il presente e, se possibile, il futuro. Valentino Rossi è la storia, è la storia della MotoGP, è la storia del motociclismo, è uno dei più grandi sportivi che l'Italia possa salutare. È un uomo che dal punto di vista della competitività ha imboccato la parabola discendente, ma è fisiologico, non esiste nessuna colpa in questo. Semmai una scelta sbagliata nell'andare alla Ducati può aver accelerato questa parabola discendente. Ha un grandissimo talento, lo ha anche adesso, ed è stato capace di approfittare di alcune condizioni favorevoli e di vincere. Potrà anche capitare, potrà capitare nuovamente, non è un bollito, dico però attenzione, perché quello che è successo ad Assen non significa che Valentino Rossi è tornato a essere uno dei due piloti più veloci in questo momento in MotoGP. Grazie Stefano. Carlo dalla provincia di Alessandria. Niente, volevo buon pomeriggio. Sì, mi senti? Prego. Volevo intervenire sul fatto di Eccleston. Cioè, sì. Noi sappiamo benissimo com'è la storia. Eccleston, lui deve fare business. Anche se ogni tanto ci scappa il morto, per lui è un business. È ora che la finiamo di questa storia. Le squadre devono poter fare i test, perché se no rischiamo veramente di fare una carneficina. E domenica, ieri, ci siamo andati vicino, cari ragazzi. Ieri è stato problema. Molto pericoloso. In realtà i test, o almeno parte dei test, sono stati cancellati anche su pressione delle scuderie, perché il costo della stagione stava diventando insostenibile, e non soltanto per i team più piccoli ma anche per team storici importanti con alle spalle delle potenze come ad esempio la Ferrari. Però è evidente che in questa situazione si sta creando un cortocircuito. La Pirelli e gli stessi team hanno bisogno di provare per mettere su strada un prodotto che sia sicuro, oltre che garantire delle performance, garantire dello spettacolo, perché quello di ieri, più che spettacolo, è sembrata una sorta di terno al lotto. Roberto da Milano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. Prego. Giovanni Capuano, io volevo parlare per la nazionale. Dica. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. Io per la nazionale sono molto contento perché ha fatto una buona conferenza show scap. Spero di non sbagliarmi che potremo vincere anche arrivare alla finale del mondiale del prossimo anno. Con degli innesti, questi Verratti, questi giovani negli anni 21, che Prandelli appunto diceva che chiamerà sicuramente. E poi l'ultima cosa, ho saputo che nel quadriennio di Prandelli sembra che lui vorrebbe lasciare, e potrebbe magari arrivarci Massimiliano Allegri. Alla nazionale, sì. Io credo che sia un po' presto, Roberto. Di sicuro c'è che quasi certamente Prandelli, dopo l'avventura del mondiale nel 2014, lascerà la Federcalcio e tornerà a fare l'allenatore a tempo pieno, e per a tempo pieno intendo ovviamente in un club, certamente un club di primo livello, ed è altrettanto sicuro che nel 2014 scade il contratto di Max Allegri e difficilmente verrà allungato. L'unica riflessione che io mi sento di fare per il bene della nazionale in vista del mondiale e che le cose siano chiare prima di partire per il Brasile, sia chiaro ad esempio se Prandelli a fine esperienza mondiale lascerà o meno, e non venga lasciato tutto ad un teatrino che rischierebbe di rendere più complicata poi anche dal punto di vista della gestione del gruppo l'avventura in Brasile. Pasquale da Catania, buon pomeriggio, prego. Buon pomeriggio, buona giornata a tutti. Io volevo parlare riferito a Buffon. Sì. Anni fa ci fu un mondiale quando noi italiani persimo sui rigori contro la Francia, che Buffon si arrabbiò verso i propri giocatori dicendo che non erano riusciti a segnare tutti quanti i gol, sì, su calcio di rigore. Ora io dico, signor Buffon, ma perché non si ricorda il mondiale del 2006, cioè l'Italia ha vinto perché ha sbagliato. Se mi ricordo male, sbagliò tre Seghetti, tirò sotto la traversa. Ma lui non ne parlò neanche uno di gole. Questa volta non ne ha parlato neanche uno di gole. Allora dico, ma dobbiamo vincere noi perché gli altri sbagliano o perché lui, il suo mestiere è anche quello di parlare di gole al signor Buffon? Pasquale, io, sono riconoscente verso Buffon perché lui contro la Francia fece due parate bellissime, anche contro il tiro di Zidane vicino alla traversa. Oh, signor Buffon, ma adesso anche lui cerchi di accettare anche la critica, Pasquale. Tra l'altro, in realtà la percentuale di rigori parati o comunque sbagliati con Buffon in porta è abbastanza simile a quella di tanti altri portieri, anzi della maggioranza dei portieri. Siamo intorno al 25%, una ventina abbondante di rigori parati su 98 tirati contro Buffon. Semplicemente i rigori non sono la specialità in cui Buffon è il numero uno, è stato il numero uno, così come capita tra i pali, in uscita, in tanti altri momenti del suo essere portiere. Però Buffon resta il portiere che nel 2014 difenderà la nostra porta al mondiale. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Poi andiamo in Brasile per parlare anche della finale di questa notte. Adesso però le informazioni di borsa. Se Pirelli fosse un produttore di profilattici ci sarebbe un boom delle nascite, avremmo risolto la crisi demografica perché esploderebbero sul più bello. Tutti convocati. Prende un posto a Fergine, Barba ha fatto la cadena, Tarvo e scatta Matteo! Non so voi, ma questa notte personalmente ritengo di aver assistito a una finale di Confederations in cui ha influito e molto il fattore riposo, quelle 24 ore in meno che la Spagna ha avuto rispetto al Brasile. Era successo un anno fa anche nella finale degli europei a Kiev, quella volta i penalizzati eravamo stati noi. È una lezione che la FIFA dovrebbe imparare, anche se non accadrà. Pierluigi Pardo dal Brasile, buon pomeriggio, anzi buongiorno per te. Buongiorno, come va? Bene, non c'è male. Sulle spiagge di Rio? Ma sulle spiagge di Rio, innanzitutto stamattina qui c'è brutto tempo, però insomma questo spesso non piega l'entusiasmo da praia dei brasiliani, anche se oggi è giorno feriale, per cui insomma ne vedo poco in questo momento, però qualcuno c'è. Sì, l'avevano presa seriamente questa Confederations, alla faccia della scaramanzia che dice che chi vince poi l'anno dopo non si ripete nel mondiale. Ho visto feste degne quasi di un mondiale, almeno allo stadio. Poi adesso lasciamo stare quello che è successo prima e dopo nei dintorni. Qual è il polso del Brasile il giorno dopo? Ma avevano bisogno di questa vittoria. Vincere questa coppa contava per questa generazione di giocatori più della scaramanzia, non ci sono dubbi. Perché ci sono giocatori che sono alla prima vera affermazione di un certo tipo, insomma Neymar e Paulinho, faccio due nomi di due giocatori che comunque adesso stanno arrivando in Europa, avevano bisogno di una consacrazione internazionale di questo tipo. Lo stesso Fred, che pure in Europa ci ha giocato ed era tornato in Brasile e adesso sicuramente torna in Europa, è un altro giocatore che aveva bisogno di accreditarsi dal punto di vista internazionale a un certo livello, più tutti gli altri, insomma, quelli che hanno vinto tanto e che sono leggende come Giulio Cesar, quelli che stanno iniziando delle carriere brillantissime come Thiago Silva, David Luiz, insomma, per questa generazione di brasiliani non si poteva scherzare. Dal punto di vista della passione, insomma, il Brasile vive per la Seleção. È un tipo di emozione e di passione che non è comparabile con quella che c'è ad esempio in Italia, dove comunque i club contano, dove insomma se un giocatore sbaglia un calcio di rigore ci sono quelli della squadra avversaria che lo prendono in giro. Ecco, qui un po' perché il grande calcio non vive in Brasile, con tutto rispetto per il Brasileirão, però insomma è chiaro che i campionati importanti sono in Europa. Qui la Seleção è ragione di vita, quindi era assolutamente, sono d'accordo con te, grandi festeggiamenti possono sembrare eccessivi, però credo che la chiave sia questa. Sì, quanto ha contato l'effetto fatica sull'esito di questa finale che in tre quarti d'ora era praticamente decisa, era già decisa probabilmente all'intervallo con il 2-0 di Neymar, poi pronti via è arrivato il 3-0 di Fred ed è calato il sipario, anzi la Spagna ha rischiato davvero una goleada. Quanto ha pesato l'effetto fatica? Ha pesato, tre giorni sono pochi per il recupero prima della finale. Noi ci siamo passati l'anno scorso a Kiev, forse col senno di poi. Lo scorso anno noi dopo la finale di Varsavia siamo andati a Cracovia e poi abbiamo fatto il giorno a Cracovia, io dormivo, insomma loro si allenavano, siamo stati tutti a Cracovia e poi siamo andati a Kiev, probabilmente si poteva fare viaggio diretto verso Kiev, però non cambia la sostanza, insomma se tu giochi una finale dove una squadra ha fatto 4 giorni di riposo e l'altra 3, questa è la differenza, se già fossero 5 e 4 ci sarebbero comunque più tempi di recupero. Poi c'era stata sicuramente la fatica della semifinale contro di noi, 120 minuti, calci di rigore, però attenzione perché secondo me è giusto sottolineare questo, però io sono di quelli che pensa che non che il calcio spagnolo sia finito, però che dei campanelli d'allarme stiano arrivando, cioè che comunque questa Spagna non è stata brillante praticamente mai, a parte la sfida con l'Uruguay in questa Confederation, Tahiti non la consideriamo ovviamente. E il calcio spagnolo, secondo me ci sono alcuni giocatori in calo. Sì, qualche scricchiolio. Sappiamo tutti che Xavi. E Xavi, che già nella parte finale, Pierluigi, della stagione con il Barcellona non era più stato un fattore determinante. E infatti il Barcellona è calato molto di rendimento. È vero che è venuto a mancare anche Messi dopo l'infortunio a Parigi. Però è vero che Xavi è il perno su cui ruota tutto, un po' come accade alla Juventus e all'Italia con Pirlo. Io credo che Del Bosque debba fare un patto, ammesso che sia possibile, con Tito Villanova, perché evidentemente la Spagna l'anno prossimo sarà comunque costruita ancora su Xavi e ha l'assoluta necessità il commissario tecnico spagnolo che il suo regista arrivi in condizioni migliori rispetto a quelle di quest'anno. Sì, sicuramente, insomma, è chiaro che le stagioni pesano, l'ha detto anche Prandelli l'altro giorno, c'è bisogno assolutamente di fare dei test, insomma. Noi siamo arrivati con grande orgoglio, però con tanta fatica e tanti infortuni a questa Confederation. La Spagna mi sembra che non sia arrivata in maniera brillante. E poi su Xavi, forse il Xavi di 2 o 3 anni fa non lo vedremo più, non lo so. Il calcio è bello perché ogni giorno ti porta a dover commentare delle cose. Sì, aspettiamo Pierluigi a metterlo sul carrello dei bolliti. Oggi è il tema della stagione, della puntata, le scuse che abbiamo rivolto a Valentino Rossi, a Gigi Buffon, allo stesso Giulio Cesare, un anno fa veniva dato per finito, questa notte ha fatto magie, certo, contro la Spagna. Aspettiamo a mettere sul carrello dei bolliti Xavi, però gli anni passano per tutti, passano anche per lui, passano anche per una generazione spagnola che credo questa notte comunque abbia vissuto una sorta di nemesi, c'è comunque una ritualità di passaggio, non penso che la Spagna arriverà da favorita tra un anno al mondiale, ma non tanto per il Brasile, mi viene in mente la Germania, la stessa Argentina, probabilmente la Spagna non ci andrà da favorita, non è detto che non possa vincerlo, però qualcosa sta cambiando, secondo me il punto fondamentale è l'energia. Io ieri ho rivisto a tratti Bayern-Barcellona, cioè ho rivisto una partita fra due squadre tutte e due organizzate, ma nella quale il tiki-taka non basta più, nel senso che se tu il tiki-taka lo sostieni con una qualità fisica eccelsa come quella che la Spagna ha avuto spesso in questi anni è un conto, se invece diventa una danza un po' stanca di una squadra che prova ad addormentarti ma che soffre ad ogni ripartenza, allora cambiano completamente le cose. E la differenza, secondo me, sostanziale fra Italia-Spagna e Brasile-Spagna è stata nella qualità degli attaccanti, perché noi nel primo tempo abbiamo avuto 4-5 occasioni importanti per poter trovare il gol del vantaggio e nessuno può pensare che avremmo vinto 3-0 con la Spagna, per carità, però magari la partita si poteva aprire. In fondo il Brasile ieri ha trovato il gol subito e ha avuto la possibilità di giocarsela alla stragrande con le ripartenze. Io ho visto una squadra per la Spagna in difficoltà fisica e per la prima volta costretta a non essere lei la padrona del campo, come lo stesso Del Bosque ha riconosciuto anche contro di noi nel secondo tempo, si sono resi conto delle difficoltà e hanno dovuto in qualche modo ripiegare, diventare meno spagnoli, diventare magari un po' più italiani da stereotipo, quindi delle cose stanno succedendo e sono cose importanti. Poi da qui a 12 mesi tutto può succedere, anche le motivazioni comunque del Brasile erano nettamente superiori a quelle di tutte le altre squadre impegnate nella Confederation. Fra un anno non sarà così, fra un anno. È la coppa che vale per una vita intera. Fra un anno sarà tutto diverso. Grazie a Pierluigi Pardo. Grazie, ciao. Grazie per Luigi, 800 24 00 24, per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi. State scrivendo in tanti che i rigori non si parano ma si sbagliano e che quelli di ieri non sono stati rigori ma rigorini, sbagliati più dai giocatori dell'Uruguay piuttosto che parati da Buffon. Può essere vero anche questo, però comunque per un portiere rimane un'impresa riuscire a neutralizzarli così come ha fatto ieri Gigi Buffon. E poi in tanti chiedete ancora perché la Pirelli sia fornitore unico della Formula 1 e se non esista la concorrenza. No, non esiste la concorrenza, ma non vale solo per la Pirelli, vale anche per chi l'ha preceduta. C'è il fornitore unico e quindi tutti i team si devono servire dalla Pirelli. Quello che servono sono dei test per mettere in condizioni Pirelli di dare il prodotto migliore possibile. Luca da Bologna, buon pomeriggio. Sì, salve. Prego. Buongiorno. Su Buffon, dunque, che sui calci, il calcio di rigore probabilmente non sia il numero uno al mondo, come invece in tantissimi altri aspetti tecnici della sua attività di lo possiamo dire. Probabilmente è vero, però bisogna, lei forse si è un po' involontariamente contraddetto, nel senso che lui non è che si è lamentato perché gli hanno detto che sui rigori non è il numero uno al mondo, si è pacatamente lamentato perché l'hanno ritratto come scarso, come una sorta di pippa sui calci di rigori, invece lei stesso Capuano ha detto che la sua media parate o comunque rigori sbagliati è in linea con quella dei portieri medi. Sì, ma la critica, Luca, i numeri sono quelli e quindi infatti, discutere sui numeri, ma la critica poi è anche il sale della passione del calcio. Se qualche tifoso o anche qualche giornalista vuole dire e scrivere che Buffon è un incapace sui rigori, lo può fare. Secondo me si espone al ridicolo, perché poi i numeri dicono qualcosa di diverso. Però io penso che Buffon, come lui tanti altri, poi sentiremo l'incredibile polemica a Napoli per una domanda di Alessandro Alciato a Cavani, dopo un mese che Cavani parla ai quotidiani di tutto il mondo per spiegare che se ne andrà da Napoli, ma poi la sentiremo. Credo che questi personaggi dello sport debbano anche avere la pazienza e l'umiltà di accettare le critiche, perché insieme agli elogi ci sono anche quelle, e più grandi sono gli elogi, come nel caso di Buffon, e anche più grandi possono essere le critiche. Questo è il mio pensiero, grazie comunque. Ci fermiamo, c'è il traffico, poi ripartiamo da Claudio da Prato. Buongiorno a tutti. Notizie del traffico? Dobbiamo dare la linea al traffico? Pensavo di avere i tempi vostri. Tutti convocati. Claudio da Prato, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti. Prego. Niente, io volevo sottolineare il fatto che si parla molto bene di, e questo mi fa piacere, della nostra nazionale, perché insomma intorno a Prandelli e il suo gruppo c'è di sicuro un atteggiamento molto positivo. E al di là delle polemiche sui rigori di Buffon eccetera, io volevo dire 5 partite e 10 gol subiti, insomma, non mi sembrano pochi per una nazionale che qualcuno prima di me oggi ha detto addirittura potrebbe puntare in alto, arrivare alla finale. Insomma, con questa media gol subiti non si arriva nemmeno alle qualificazioni, non solo alla finale di un campionato del mondo. Sì, sono tanti gol. Sono tanti gol, Claudio, ha ragione. Così come ha ragione chi sottolinea che questa nazionale, per paradosso, ha giocato le partite migliori nel momento in cui non c'è stato Balotelli, che di questa nazionale è un po' il simbolo, oltre che essere il centro del progetto tattico di Prandelli. Però è anche vero che questa nazionale è arrivata in Brasile in condizioni non buone dal punto di vista della condizione, e nel momento in cui Prandelli ha corretto la rotta, ad esempio inserendo la difesa 3 nella partita contro la Spagna, le prestazioni, anche quelle difensive, sono migliorate. Quindi io credo che Prandelli farà tesoro di queste esperienze e fra un anno presenterà una nazionale in condizioni migliori, sempre che i club glielo consentano. Poi non penso che questa sia una nazionale che possa arrivare alla finale, perché perché ce ne sono altre che sono più forti, cioè che scrive ad esempio al 349-238-6666, Germania, Argentina e Olanda tra le prime quattro. Io aggiungo anche il Brasile, che non sarà probabilmente questo, ne abbiamo parlato nel corso della scorsa settimana, ma è comunque una squadra che avrà delle motivazioni incredibili dal fatto di giocare in casa. Lo abbiamo visto anche ieri sera in un Maracanà che era davvero ribollente di entusiasmo. Raffaele da Napoli, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, la ringrazio per avermi convocato. Senta, a me ha fatto una impressione grandissima Neymar. Secondo lei, nel Barcellona con Messi può essere per paradosso una coppia che può esplodere o può crearsi dei problemi come è successo per Ibrahimovic con gli altri giocatori? E se vede il Brasile favorito anche per l'anno prossimo per i mondiali? Ma soprattutto avevo un giudizio su Neymar che a me ha impressionato moltissimo, insomma. La ringrazio. Grazie Raffaele. Neymar era molto atteso in questa Confederations, perché in tanti hanno detto nel momento della firma col Barcellona: vogliamo vederlo con delle difese europee o comunque con sfide di livello più alto. Ha fatto benissimo, stanotte ha fatto letteralmente impazzire la difesa della Spagna, e io credo che con Messi formerà una coppia assolutamente straordinaria, anche se ha ragione. Messi è un giocatore che cannibalizza il gioco del Barcellona e ha fin qui fatto fuori tutti i suoi compagni di reparto, l'ultimo è stato David Villa, infortuni a parte. Io credo che Neymar, per età e anche per carattere, perché mi sembra un giocatore poco propenso a farsi cancellare dal campo, sia un giocatore in grado di fare coppia con Messi, sia comunque in grado di non subire dal punto di vista anche caratteriale l'argentino. Però è evidente che sarà una bella sfida, e comunque Neymar ha 5-6 anni meno di Messi, il futuro è dalla sua parte, e può anche essere che piano piano il Barcellona si costruisca in casa l'alternativa. Grazie comunque Raffaele. Parliamo della polemica De Laurentiis contro Alciato, Alciato contro il Napoli, tutto per questa domanda posta da Alessandro Alciato, giornalista di Sky, nel dopo partita di Italia-Uruguay. Un'ultima cosa, te la faccio direttamente perché ormai mi sembra di aver capito che la tua avventura a Napoli sia finita e che tutti ti vogliano, più Chelsea o più Real Madrid, perché di quelle due squadre si parla adesso. Alciato, persona scorretta e sgradita, ha scritto De Laurentiis su Twitter, non lo so, ditemi voi. A me sembra che semplicemente Alessandro Alciato abbia fatto la rassegna stampa di quanto scritto dai giornali in Italia, in mezza Europa, da un mese a questa parte. Però a Napoli se la sono presa. Pier Augusto Stagi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Ciao Pier. Tour de France che purtroppo è ancora costretto a guardare indietro, oggi i giornali sono pieni dell'ipotesi che venga tolto il Tour del 1998 a Marco Pantani se il 18 luglio il suo nome comparirà nell'elenco di coloro che con controlli postumi sono stati scoperti a fare uso di EPO. È un'ipotesi concreta? C'è una mezza marcia indietro di Patrick McQuaid, e al di là di tutto è giusto o no? Non è assolutamente giusto, perché lo impone che altro il buon senso, se no siamo veramente alla follia. Io credo che in qualsiasi sport ci debbano essere poche regole certe, e queste devono essere applicate con rigore, senza guardare in faccia a nessuno, però ci bisogna assolutamente mettere un punto. Secondo me, anche per la vicenda Lance Armstrong è stato calpestato il regolamento, c'è un regolamento VADA che parla di una prescrizione di 8 anni, ma sappiamo bene che poi ci sono i poteri forti o comunque poteri meno forti che però in un momento particolare della storia diventano estremamente più pesanti dei governi costituiti. In questo caso ad esempio l'USADA ha avuto gioco facile, perché ha messo spalla al muro l'UCI, ha messo spalla al muro il Tour de France, dimostrando che in realtà avevano consentito, se non facilitato, se non chiuso gli occhi nel periodo di Lance Armstrong, e quindi l'UCI si è trovata a dover accettare anche di strappare un regolamento che in realtà c'è. Che sì, nel caso, Pier, nel caso di Pantani, diciamo che a differenza di quanto accaduto con Lance Armstrong, ad esempio, manca la confessione, perché poi in fondo Lance Armstrong ha confessato di aver taroccato tutta la sua carriera, o quantomeno quella parte della sua carriera. Qui con Pantani mancherebbe, per motivi che conosciamo tutti, anche semplicemente la possibilità di difendersi, il contraddittorio. Non lo so, se non fosse che evidentemente c'è tutta una generazione di ciclismo che in qualche modo è screditata da quanto è emerso successivamente, e quindi forse un nome in più o in meno sull'albo d'oro ha poco valore. Allora, non dimentichiamoci che negli anni 90 i corridori correvano tutti sullo stesso livello, cioè tutti facevano tutti la stessa cosa, anche per una cosa molto banale che, passami qui, il presidente del governo mondiale del ciclismo si dimentica, e quindi possiamo dire qual è la statura di questo dirigente e di questi dirigenti. Negli anni 90, metà anni 90, 96, nel ciclismo sono introdotti controlli sia sangue urine che appunto il limite dell'ematocrito. Cosa vuol dire il limite dell'ematocrito a 50? In poche parole, hanno permesso, per limitare l'uso di EPO, quindi un addizionale di globuli rossi, il limite appunto dell'ematocrito per la tua salute a 50. Quindi capiamo chiaramente che tutti dovevano stare a 49, fino a lì potevano arrivare, chi aveva l'ematocrito a 36 poteva fare delle cure per arrivare a 49, quindi è sciocco dire in quel periodo hanno usato EPO, perché l'ha permesso il governo mondiale della bicicletta, era insito nel regolamento. In quel periodo tutti usavano l'eritropoietina, tutti facevano uso di EPO. Sì, Marco Pantani è stato il più forte di tutti, a parità di chimica. C'è un po' di ipocrisia, insomma, in questo revisionismo postumo, che poi nel caso di Marco Pantani, insomma, va a toccare anche un atleta che comunque ha pagato anche alcune scelte personali nel modo che sappiamo. Pier, ti devo salutare perché siamo in chiusura, oggi terza tappa, finale duro, poi vedremo, e ci racconterai anche nel corso degli altri appuntamenti su Radio 24 come andrà a finire. Grazie a Pier Augusto Staggi, io ringrazio anche Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanida che è autore di questa puntata. Carlo Genta torna, ve lo garantisco. L'appuntamento è con tutti i convocati domani a partire dalle ore 14. Un saluto anche da Giovanni Capuano. Out. No. Non è vero, ma non è vero, ha preso il gesso Pascal, ma come fai? Tu non mi dai warning? Come fai a darmi warning, per favore? Come fai? Dai, com'era? Franti, dai! Ti ha toccato il coso, il touch the white one! Sì, il touch the white one, così, non te ne... Come cazzo fai? Madonna! Sì, c'è niente.